Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Voglio che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: "Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!" You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh, the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on baby, light my fire. PD è l'unico partito che quando deve discutere accende lo streaming, dialoga, si confronta, e questo è un fatto positivo. Qualcuno però poi dice anche troppo, perché si litiga tutti i giorni dalla mattina alla sera, e l'impressione non tanto di chi vuole votare per noi, ma dei nostri iscritti, è di gente che non ne può più. Ieri ho fatto un po' contro natura anche una proposta di mediazione ulteriore, perché penso che, cioè, un momento difficile a livello internazionale. Di apertura di questa commissione, qualcuno dice discorso... però perché farlo dopo le elezioni, non si può fare prima, non si può decidere prima. Ragazzi, va tutto forse bene. Non si fidano. Cioè, ho capito, se non si fidano allora fanno bene a votare no, che devo dirle? Di che cosa stiamo discutendo? Marino si è dimesso lui. Poi ha ritirato le dimissioni. Insomma, ma dai. Lui, mi sembra. Scusate, vorrei. Mi sembra che. Scusate, io vi prego, se volete buttarla sulla battuta tra di noi, non ho alcun problema. Ho fatto il sindaco, gentile dottoressa, ma non ho fatto per anni il direttore del TG, ho fatto il sindaco. Sì, è vero, in effetti ha ragione Renzi quando dice siamo l'unico partito in cui si discute, si dibatte, però basta, mo basta. Sì, caro Renzi, siamo ben oltre l'asticella dell'effetto rottura di Maroni. Lo dico proprio in maniera esplicita, perché anche oggi, ieri a pagina 3 del Corriere della Sera ci informavano di quali fossero i pensieri di Nico Stumpo, di Zoggia, Gotor. Oggi a pagina 3 del Corriere della Sera c'è una intervista di una pagina a Cuperlo. Che farà Cuperlo? Cioè, io dico, allora, la politica è importante. Il mio parere è sempre che ci sono troppi giornalisti nei giornali e quindi bisogna farli scrivere. Ma questo è un parere così personale. Poi i colleghi mi incontrano al bar e mi dicono sei un fascista. Però questo è il mio parere personale, lo cancelliamo. Cancella dalle registrazioni, Peter. Troppi. Siamo in troppi. Vabbè. Detto questo, la politica è importante, ma sarà più importante, saranno più importanti altre cose? Cioè, nel senso, se vuoi che i giornali poi vengano comprati e letti dagli italiani, cioè raccontare quello che succede nel paese dal punto di vista dell'economia, del lavoro, della vita di tutti i giorni, no. Zoggia, Stumpo, Cuperlo. Andiamo avanti così. Oggi infatti c'è Bersani, colloqui con Bersani su Repubblica, intervista a Bersani sulla Stampa. Avete sentito ieri Renzi da Politics dire se non sono d'accordo votino no. C'era anche Crozza, non c'era Bersani di martedì, ma c'era Crozza in Bersani. Bersani in Crozza, fate voi. Porco boia, ragazzi, io nel PD ci ho passato tutta la mia vita. Beh, certo. Sì, sì. Se io esco da qui, dove vado? Beh, magari non lo so. Posso mica fare la fine di Fascina, eh? Perché? Fascina adesso è ai giardinetti? Con i piccioni che danno da mangiare a lui? Ma no, non è vero. Effettivamente non è male, i piccioni che danno da mangiare a Fassina. Allora colgo con questa immagine la nostra rozza del basta mercoledì. Ma buongiorno, te lo vedi, te lo vedi il piccione che va da Fassina? Te lo vedi il piccione che va da Fassina? Via, perché un po', questo parallelismo? Un po' di becchime, ma no, non lo so. Non lo so, questa immagine. Buongiorno Alino. Mi ha rallegrato il risveglio. Così, ma sì. Vedi che c'è anche sempre un modo divertente per affrontare anche questi argomenti, alla Crozza, per esempio. Ci sono, sì, certo, sono tanti gli argomenti, sono tante le pagine, e di contro di questo si discute, di sì. Litigano. Aspetta insomma, un attimo, sì, le copertine, ci sono le copertine a casa Saluzzi? No, è finita la sigla, porcaccia la miseria. Sono le copertine. Volevamo rimboccarti la copertina. Sì, sì, no, vi prego, se mi rimboccate la copertina stamattina rimango a dormire. Ecco, ecco. Qui. Oh. Che infatti anche questa cosa di rimanere a dormire, ho espresso questa cosa veramente da vecchio, ma perché dobbiamo andare fino a Marte, che io faccio fatica a uscire dalle coperte alle 5 del mattino e questi entro il 2040 mi vogliono portare fino a Marte, ma cosa però ci faccio? Però vuoi a mettere, Marte? Vuoi mettere, c'è la missione tutta italiana. Ah, ecco, ah, viva l'Italia! Sarà emozionante, ma scherzi, ma è una cosa meravigliosa. Viva l'Italia, evviva, siamo tra i numeri uno al mondo, ed è una cosa della quale dobbiamo vantarci molto. Sì. Poi da qui all'idea che insomma io e te e il nostro gruppo di ristretti amici si esca e si vada su Marte è un'altra storia. Un tempo si dice, adesso si dice andiamo a far castagne, domani si dice andiamo su Marte. Pianeta rosso e non ne parliamo più. Via. Allora, insieme a Paola Saluzzi abbiamo il nostro super mega dire, il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno Luca, come va? Buongiorno. Eccoci qua. Intanto ci salutano un po' tutti. Simone dal Basso Vicentino ci chiede Amedeo da Udine se possiamo sentire il trattorino di Paola. Il trattorino e la macchina del caffè. Adesso vediamo. Al trattorino anche Caterina. No, guarda, Caterina è rimasta per l'appunto per via di Marte, è rimasta di là a dormire e questo è già un segnale. Ecca. Invece di seguirmi come sempre, l'ho vista accoccolata sulla coperta, mi ha guardato ed è rimasta lì. Pure i gatti. Adesso opero per il trattorino, sì, esatto, pure i gatti ci abbandonano. Pure i gatti si annoiano. Quelli vogliono dormire la mattina. Ma no, ha sentito parlare di Cooperlo e Fassina. Raccontagli quella dei piccioni. Che potrebbe essere interessante. Se le racconti quella dei piccioni, si sveglia, sì, secondo me. Beh, sì, piccioni, potrebbe essere piccioni. La mia gatta, per esempio, appena vede i piccioni sul balcone, diventa una furia. Insomma. Eccolo qua, il trattorino in azione. Aspetta, quasi pronto. Aspetta, che intanto noi apriamo il Barlamento, così il bar sono è aperto. I suoni del mattino. Ragazzi, quindi, se uno esce per prendere un caffè, esatto, e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Forza, gente, accorrete al bar. Allora, c'è un ascoltatore, il solito, che mi saluta, ci saluta dalla solita Pontina e mi dice, e fammi una twittata. Ma come parlate? Ma così. Milan, fammi una twittata. Luca Dini, che vuol dire fammi una twittata? Eccolo, ecco. Scusate, il trattorino dedicato al nostro scusa Luca, sta facendo un caffè, perdona. No, ecco. Il direttore, un caffè? Magari. Allora, stavate dicendo, vi ho interrotto. No, perdona. No, esatto, cos'è una twittata? Non lo so, vabbè, dai, lasciamo. No, gli spari uno dei tuoi rassegnati. Ah, uno dei miei rassegnati, va bene. Saluto anche Enrico da Loreto che vorrebbe mandare Paola la rossa sul pianeta rosso, mi sembra anche giusto che su Marte ci potrà stare. Un bel accoppiamento. Sì, esatto. Allora, caro Luca, tu sei, lo so che sei un po' appassionato a metà. Di questa vicenda. No, per niente. No, zero. Ma ci sarà un punto di... Ma no, adesso c'è un modo per vederla in maniera intelligente anche per tutti noi italiani. Adesso non vogliamo fare quelli che proprio, no, viviamo su Marte, ecco, lo dico io, e non ce ne frega niente, non ce ne deve fregare di questo dibattito all'interno del Partito Democratico. No, il dibattito è democratico, è importante. Dopodiché non è che lo dobbiamo per forza vedere, come dicevi tu, e appunto alla fine chi non... Su questo sono molto d'accordo con Renzi, votate no e non rompete. Cioè, voglio dire, basta. Non, il dibattito all'interno di un movimento ha senso fino a un certo punto, dopodiché o stai dentro o ci stai. O ci stai, sì, oppure, oppure si va, oppure c'è la scissione, ma tanto questa cosa non ci sarà, perché dai, no, insomma, appunto, per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta non ci sarà, ma sono, e sono contento se sono contenti loro, non è che. Sarebbe ricordare che Bersani è leggermente responsabile della situazione in cui ci troviamo. Ah, tu dici. Cioè, beh, insomma, il fatto di non essere riuscito a creare il governo, di tutto. Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. La birretta da solo, sappiamo, lo streaming. Smacchiamo, smacchiamo qua, smacchiamo là, eccoci qua. Eccoci qua, smacchiamo qua, smacchiamo là, ed eccoci qua. In questa, bella situazione a parlare di Cooperlo, Zoggia e, ragazzi, e Stupo. Siete il buon umore, siete il buon umore del mattino. No, dai, perché tu Paola, dillo, tu non puoi dirlo perché poi giustamente l'inviti in onda alle 10, anch'io l'invito in onda, e quindi... Certo, anche tu l'inviti, insomma, no, ma il concetto è questo, no, sì, alla fine tanto, tutto è contrario, alla fine si decida, no, cioè ieri Renzi diceva questo, poi alla fine, insomma... ivi compreso il fatto di aver fatto il sindaco per tanti anni e di aver materia per quantomeno controbattere a Marino come sindaco di Roma, ma quella è un'altra storia ancora. Sì, alla fine, dopo tanto litigare, alla fine arrivi ad un punto, se no è una scazzottata eterna, insomma, non no, ma infatti è una scazzottata. L'ultima di Bersani, perché quando hanno evocato la scissione, mi devono portare via con l'esercito. Senti qua, chiamo l'esercito. Bersani. Invito tutti i commentatori a levarsi dalla testa il tema scissione. Per quel che riguarda me, portarmi fuori da casa mia ci può riuscire, cioè dal mio partito, ci può riuscire solo la Pinotti schierando l'esercito. Con meno non succede. Eccolo lì, eccolo. Ma vi ricordate che non l'hanno votato neanche a casa sua? A Bettola, è vero. Facciamoci una domanda. Vabbè, tra l'altro Bersani poi dice niente, oggi Luca Dini ha deciso di disintegrare Bersani. Vabbè, si è svegliato. Oggi, ha Luca detto, Dini si è svegliato Goldrake. Prima di andare su Marte devo sistemare due conti con Bersani. Esatto, lamero tanti e via. Esatto. No? Così, Goldrake. Poi c'è questa cosa che tra l'altro accomuna, voglio far sentire ancora Bersani, accomuna l'Italia all'America. Adesso vi faccio ascoltare perché Bersani parla di apocalisse, no? Sentite. Noi non siamo a un appuntamento col giudizio di Dio né con l'apocalisse, stiamo discutendo in Italia di una cosa italo e italiana. Italo-italiano, non ho capito che vuol dire, però questo mi fa fare questo tipo di osservazione, vorrei anche il vostro parere, cara Paola, caro Luca, cioè c'è sempre questa idea, e mi porta anche a quello che ha detto Hillary Clinton in America, e cioè sono, come dire, l'ultimo ostacolo tra voi e l'apocalisse. Per carità, è giusto drammatizzare nelle elezioni, ma si tratta poi di decisioni politiche. Non lo so, io faccio sempre notare che in Spagna non c'è il governo da un anno, eppure c'è il PIL che cresce del 3%. In Belgio sono stati due anni senza governo. Non è che la gente si massacrava per le strade, no? Luca, tu che pensi di questo atteggiamento sempre a drammatizzare gli appuntamenti elettorali? No, lo trovo sbagliato quando è sbagliato. Il caso americano è leggermente diverso, secondo me. Nel senso che... Lì dici Trump è veramente l'apocalisse. Non lo so se è l'apocalisse, però certo, voglio dire, è uno di quei casi dove dire un presidente o l'altro non è la stessa cosa, sicuramente. Quindi in quel caso, insomma, la Clinton non ha tutti i torti. Paola, tu che dici? No, l'America, dice giustamente il direttore, l'America è proprio un capitolo a parte, mai come in questo momento, mai con una campagna elettorale così brutta, così bassa, come accuse proprio da lite di condominio tra due condomini che se le tirano uno di una presso all'altro, cioè approfittano della discussione per insultarsi. Sì. Però è un'altra storia, perché che, elegge che l'uomo pensi, che ne pensi, appunto, la donna più potente che ne pensi di Trump, di questo suo bel atteggiamento con le donne, questi... Ma già detto in materia tempo fa, oddio, insomma, cose non nuovissime, visto che no, infatti sono di 10 anni fa, si sa che Trump con le donne ha sempre avuto, come dire, questo approccio. È un mostro, ecco. Cioè, e Farage, che è un mostro come lui, sì, quello lì che sta su e fa danni in Gran Bretagna, sì, che dice no, invece è un maschio alfa, ma insomma, voglio dire, arrivate all'omega e finite lì e non parlate più. E poi sono chiacchiere da spogliatoio. Bene, tenetele nello spogliatoio. Cioè, voglio dire, è inutile adesso sdoganare qualsiasi forma di chiacchiera, qualsiasi forma di pensiero, qualsiasi forma di modo di dire e di fare. Trump è semplicemente un mostro, non è che questa cosa abbia aggiunto qualcosa dal mio personale punto di vista, non ha aggiunto, non mi ha fatto sobbalzare sulla sedia, è un mostro, basta. È un mostro. Lo era prima, lo è dopo. A proposito di chiacchiere da spogliatoio, sapete che ne circola un'altra, questa ve la dico così, il sito GiustiziaMe dice e assicura di avere visto in anteprima un video. In questo video c'è la vecchia Olgettina, non perché sia vecchia, ma insomma perché la vicenda ci riporta indietro di qualche anno, Maristel Polanco, che avrebbe filmato Berlusconi, e Berlusconi in questo video parla anche di Raffaella Fico e Balotelli, e dice Berlusconi, secondo questo video, una che va con un negro mi fa schifo. Tra l'altro, caro Luca, Maristel Polanco, che lì a fianco, fa notare: ma anch'io sono negra, Silvio. No, tu sei abbronzata. E questa sarebbe la risposta. La risposta, esatto, avrebbe rispolverato la foto, cioè la foto, la battuta su Obama. Ecco, a proposito di chiacchiere da spogliatoio, vi dico questa. Intanto, dai, andiamo al traffico. E vai col traffico. Già vi adoro tutti, in realtà adoro Alessandrino, poi tu mi metti Sid Vicious di mattina, come fa a non adorarti, cioè, grande intenditore. Siete quasi al top, non proprio al top, quasi. Milan, guarda che ci sono anche le persone serie, e Cooperlo è una persona seria. È inutile che tu coglioneggi e cerchi di prendere in giro chi dice cose giuste e di serietà. Ma che cazzo, dai. When everybody's heard about the bird. Settimana questa che ci sarà da Vespa, Renzi! Manca, io sto guardando le trasmissioni, mancano le previsioni del tempo curate da Matteo Renzi. Manca la domenica sportiva condotta da Matteo Renzi nel nome del sì. Al grande fratello VIP, penso che prima del 4 dicembre ci sarà una capatina di Matteo Renzi. Vabbè, Matteo Salvini la vede così. Ma cara Paola, diciamolo in coro, anche lui è piazzato. No, ma io, sì, anche Salvini, non è che se apri il microonde ogni tanto al mattino ti dice Matteo Salvini. A me è successo una volta, vi giuro. A te, Luca, non è mai successo? Apri il frigorifero? Sì, ho spento. Vabbè, è sempre meglio di dire ho acceso e ho cotto a lungo. No? Diciamolo chiaramente, Paola, io amo Cooperlo, dai, ripeti con me, io amo. Ma adesso Alessandro, ma no, vabbè, ma nel senso, se no sembra che ce l'ho con Cooperlo, ma andate al di là di quello che ho detto, io non ho niente contro Cooperlo, gli voglio bene, lunga vita Cooperlo, lunga vita politica, grandi successi, è il contesto, cioè, nel senso, no? È il contesto. Si era capito il tipo di critica che ho fatto? Sì. No, no. Ecco, sì. Cioè, dire basta. Però sapete che noi scoviamo i nostri ascoltatori all'estero. Guardate che è una risorsa incredibile. Ogni giorno ne scoviamo sempre di più e di posti e da posti stranissimi. Una volta ci ha scritto, questa è vera, vi giuro. Mi ha scritto un ascoltatore, ci ha scritto dicendo: vi ascolto dal Nepal. Dal Nepal, ma anche, meraviglioso, anche ci ha mandato una mail della radio, e gli ho detto: e dacci il numero di telefono. Fa: no, non te lo do, se no mi chiamate. Come dire, sono venuto fino in Nepal. Lasciatemi tranquillo. Lasciatemi, non mi rompete le scatole in Nepal. Ma oggi invece vi voglio presentare un ascoltatore che ci porta direttamente nel cuore del mondo, nel cuore dei misteri. Il signor Franco. Il signor Franco, da dove ci ascolti, Franco? Sì, ciao a tutti. dove sei? Sto chiamando da Panama. Da Panama. Ah, ah, ecco subito la Paola Saluzzi. Sei lì per i Panama Papers, eh? Sei lì a... eh? Esatto. No, no, come esatto? Mesi che mi sono trasferito qui a Panama. Sì, ma come esatto? No, non sei per i Panama Papers. Queste. No, no, no, vivevo in Brasile, volevo vivere di fronte al mare, sono venuto a Panama. Perché no? E ci ascoltavi anche dal Brasile? Sono da sempre che vi ascolto, tutte le mattine andando al lavoro, in fantastico. Podcast, e tornando sento Barisoni. Fantastico, cioè dal Messico, fantastico. Dalla Malesia e dal Brasile, adesso da Fano. Questa Barisoni la diciamo dopo, in privata sede. Senti un po', Franco, ma che fai a Panama? No, di che cosa si parla a Panama? Cosa c'è, la Gazzetta di Panama, il Panama Courier, il Panama Express? Cosa? No, c'è la prensa, la critica, ci sono alcuni giornali, periodici, normali. Non li leggi. Sì, quello che si parla in questi giorni, soprattutto sulla sicurezza. La sicurezza a Panama. Panama è stato un paese abbastanza sicuro, sta aumentando l'insicurezza, omicidi legati a narcotraffico, perciò anche questa parte del mondo che era un po' più tranquilla sembrerebbe che sta peggiorando. Mannaggia. E a Panama votano sì o no al referendum di dicembre? No, ovviamente. No, come no? Ma che cavolo gliene frega a Panama? Ma tu... È pieno di italiani. Ah, quindi tu voterai, Franco, giustamente. Voterai. Certo, certo, voterò. Voterai. Va bene, Franco, che fai a Panama? L'ultima domanda, che nella vita, come... Sì, sono ingegnere, lavoro per una società che fa componenti elettrici, ha sede, tra l'altro la sede principale in Italia è Sesto San Giovanni, vicino a casa tua. Cioè, praticamente dove sono nato io. Cioè, sei mio cugino, esatto. Franco. Esatto. Ho scoperto che... cioè, cugino mio! No, non è vero! Franco, non però, vero. Da Sesto San Giovanni a Panama, un grandissimo abbraccio. Che clima c'è a Panama? C'è caldo, c'è freddo? Caldo, umido sempre. Caldo, umido sempre. Viva Panama! Grazie, viva grazie. Franco! Ciao, ciao, vabbè. A tutti. Caro Luca, queste sono pensa le cose. Che bei capelli! I famosi capelli, pensa ai sarti, anche questa, esatto. Il sarto di Panama, elegante, e non c'è Cooperlo. E andiamo avanti così, esatto. Oh, secondo me non parlano di Cooperlo, a Panama. Allora, io però qui la copertina di Vanity Fair vedo, eccolo qua, un altro Brad Pitt. Eccolo qua, aspetta, la devo, non l'avevo ancora aperta, caro Luca. Ce n'è un altro? Mi devi perdonare. C'è un fratello clonato? No, è lui. Un gemello? È sempre lui, è Brad Pitt. Ma che tatuaggio ha sul polso? Una roba imbarazzante. Sono, ma perché sono i nomi? Sono gli iniziali dei figli. E infatti ce ne ha 25 qua, MPZSKV. Sì. Cioè un codice fiscale praticamente tatuato sul polso. Sono però io, come sai, faccio le mie scelte un po' diverse. Hai fatto bene a dedicare una vicenda, un articolo ad Aleppo. Noi ce ne siamo occupati la settimana scorsa con delle testimonianze terribili. Noi non ce ne frega niente, o meglio, a molti non frega niente, ma là si muore. È male, E da 6 anni c'è questa guerra. Sei anni, ma negli ultime settimane è molto peggiorata grazie all'amico Putin, diciamo. All'amico Putin. Un altro maschio alfa, molto amato da altri maschi alfa. Che invito a leggere, ma non c'è bisogno che leggano questo articolo, dovrebbero saperlo. No, ma io invece, tra l'altro, oltre a leggere l'articolo, ci sono delle foto che sto vedendo, foto impressionanti che raccontano come i bambini purtroppo sono tra le vittime, come tutti. Certo che soprattutto i bambini. Ad Aleppo sono rimaste le vedove, i vecchi, i bambini, pochi uomini. E i più poveri che non sono potuti andare via perché non avevano i soldi per pagarsi il passaggio, quindi questa è la gente che stanno massacrando con, diciamo, purtroppo con l'impotenza dell'ONU. Esatto, stiamo parlando di ovviamente Siria, non l'ho detto, ma ci siamo occupati la scorsa settimana. C'è anche un italiano che è Staffan de Mistura, che è quello che deve mettere, diciamo, sul tavolo, davanti al tavolo, a discutere quelli che dovrebbero fare la pace. Ma insomma, mi sembra una di quelle operazioni po' complicate. Ecco. Va dove bene. È condizionale e d'obbligo. Io volevo fare una nota. Sì. Breve storia di due amiche per sempre. Oh mamma mia, lo conosco. L'autrice è Francesca Del Rosso. Lo conosco questo ed libro. Ed è un delizioso, splendido libro.